per parlare di un libro, Giorni che valgono anni. Ne parliamo con Vincenzo Migliucci. Vincenzo, ben ritrovato, come stai? Ciao, grazie a te, buonasera a tutti voi. Oh. Allora, intanto mi incuriosiva tantissimo questo volume, ancora non ho avuto modo di metterci mano e sicuramente ne faremo anche altri spazi più approfonditi, però questo è per lanciare l'appuntamento, questa presentazione del prossimo venerdì 6 ottobre alla BAM, Biblioteca Popolare. Vincenzo, allora intanto ti chiedo la scintilla che ha fatto muovere tutto per l'idea di questo libro. Beh, intanto, come dico io ho curato solamente i materiali del Movimento 77, quindi la scintilla è il 40° anniversario di questo movimento, di cui la curiosità l'ha impressa soprattutto, lo hanno impressa soprattutto i media e ovviamente chi in quel tempo giocò una parte nemica nei confronti del movimento, la CGIL. E ovviamente i media, come dire, i borghesi che non hanno mai dimenticato quel movimento che tanto filo da torcere gli ha dato. E, in effetti l'autore di questo volume è il movimento stesso, perché è la raccolta dei materiali originali del Movimento 77, in particolare a Roma e Bologna, in virtù del fatto che c'è stata una reciprocità costante, fosse solamente per la vicenda di Francesco Lorusso l'11 marzo, che avviene alla vigilia di una manifestazione che non era stata indetta nei confronti della repressione che colpiva, appunto, che uccideva un compagno, ma era stata indetta dall'insieme delle realtà nazionali che si erano nomate Movimento 77 solamente alla fine di febbraio, e poi ovviamente il convegno di Bologna che nei 40 anni appena trascorso, dal 25 al 27 di settembre, quando sull'appello dei filosofi francesi, da Jean-Paul Sartre a Gattari, a Deleuze e quanti altri ancora, stilarono un manifesto in cui si disse che la politica del compromesso storico e dei sacrifici nei confronti dell'insieme degli italiani costruiva una democrazia blindata sotto l'egida ovviamente di questa diarchia Democrazia Cristiana Partito Comunista, e che quindi era bene che i movimenti si facessero carico, e anche coloro i quali erano oltre Alpe, di una capacità di indicazione alternativa. E ci furono appunto le tre giornate di Bologna che, oltre il dibattito, il confronto eccetera, furono una kermesse importante, perché invasero circa 50.000 persone, compagni per lo più, giovani per lo più, la Bologna di Zangheri, che era un sindaco estremamente aggettivato, nel senso che ha cominciato a sparare addosso alle figure del movimento definendoli unturelli e quant'altro, e lui si prese questo epiteto Zangheri, Zangherà, a fanculo la città, insomma, e tutto questo in una happening che Bologna visse lungo i viali, lungo i portici, nelle piazze, dalla Maggiore ovviamente a Piazza Verdi, piene di tende eccetera, e ne dissero di peste e di crude, ma in definitiva indicò anche un modo di vivere, un modo di essere in qualche misura, ecco, voglio dire. Questi sono allora i materiali originali, confezionati insieme ad una prefazione, ad un'introduzione e ad una lunghissima conclusione di un anno, cioè giorno per giorno quello che accadeva, e si vede attraverso questa lettura che l'anno 1977 vale bene dire giorni che valgono anni, in virtù che ogni giorno c'erano non solo iniziative e manifestazioni, ma scontri con la polizia, con i fascisti, e anche iniziative di indicazione di un'alternativa al sistema dominante borghese. Per cui invece di farci parlare addosso, certo, cosa che hanno strafatto a partire da febbraio alla vigilia della cacciata di Lama, per finire con la morte di Giorgiana Masi e ovviamente con il convegno di Bologna di 40 anni fa, dedicata ai più giovani, a coloro i quali che non c'erano, dicendo: se volete conoscere come sono andate in qualche misura veramente le cose, attingete alle fonti dirette, fatevene una ragione e quindi utilizzate questi materiali come meglio credete, punto. Nessun'altra volontà ovviamente di indicazione e ovviamente di tentativo di usare il 77 movimento 40 anni fa nell'attualità di oggi, anche se a mio parere oggi le cose sono estremamente più gravi, soprattutto perché manca un movimento alternativo alla borghesia. Sì, sì. Senti Vincenzo, rispetto a quel movimento che è stato probabilmente il movimento di massa più forte di questa penisola dalla nascita di qualsiasi popolazione su questo territorio ad oggi, e per la sua vastità a livello sociale ha interessato tutti i campi, dall'istruzione alle istituzioni totali, passando per l'università e il mondo del lavoro, quali sono a tuo avviso i lasciti che i punti, gli elementi qualificanti che ancora oggi portiamo come patrimonio? Beh, intanto lì c'erano i valori fondanti di un decennio antagonista, rivoltoso, che si portava appresso una carica decisiva nei confronti della società, nei suoi costumi, la possibilità sicuramente di intraprendere un'altra strada, la volontà accumulativa di una generazione che si è confrontata con lo stragismo, che si è confrontata con la superbia dei padroni, che si è confrontata con una diarchia appunto di partiti estremamente debordanti come lo erano la DC e il Partito Comunista, e di un sindacato che aveva un valore ancora molto esemplificativo e anche riconosciuto in quell'epoca, eccetera. Oggi tutto questo non ha più ragion d'essere, i partiti sono a comitati di affari, come qualcuno li definì già a suo tempo, oggi lo sono effettivamente, il sindacato ha avuto una lunga complicità che lo ha travolto, e le istituzioni sono come dire negative nei confronti della popolazione, nei confronti dei meno abbienti, la povertà è incipiente, eccetera. Certo che quell'indicazione del rifiuto del lavoro salariato, che passava attraverso un'indicazione del lavorare meno, lavorare tutti, attraverso la riduzione della fatica in fabbrica, anche con l'assenteismo, con il sabotaggio e con l'effrazione dei covi del lavoro nero, che Roma e Bologna ovviamente ne avevano abbondantemente, sono e rimangono ovviamente un indicatore importante, in virtù che l'attuale società della precarietà, di questo si tratta, gli stessi indicatori borghesi, l'Istat documenta, nonostante le sparate di Renzi, che i lavori che possono aumentare sono tutti lavoretti, sono lavori infinitesimali, di poco conto, di tanta fatica, che non costruiscono la possibilità di un futuro per nessun giovane. In queste giornate di Torino anti G7 ho preso parte ad una interessante riunione a carattere anche europeo dei bikers, cioè di coloro giovanissimi si portano con una bicicletta a fare da spalloni, da fattorini, portandosi dietro le spalle e correndo per queste vie piene di macchine con rischio di ferite, di salute, insomma, eccetera, non hanno nessun rapporto di lavoro diretto, non hanno nessuna fisicità, hanno addirittura il telefonino e quindi una app che gli comunica che devono prendere un gelato da una parte e portarlo dall'altra, e se tutto va a buon fine prendono 3 euro. E immagina quindi questa evoluzione del lavoro del cottimo, perché di questo si tratta, del lavoro ultrasalariato, degli bassi fondi del lavoro, ovviamente eccetera, cosa possono mantenere ancora come parallelo noi che cercavamo appunto di fare piazza pulita travolgendo alcune aziende del lavoro nero eccetera, mettendole allo scoperto. Oggi abbiamo un sistema della precarietà più infame che non esiste, appunto non esiste neanche la fisicità del rapporto. Pensiamo ai bisogni universali, al diritto alla casa, pensiamo al diritto di vivere dentro una casa, quindi avere le utenze che costano una cifra, avere il diritto alla salute, oggi completamente negato e lo sarà sempre di più. Siamo vicini al sistema americano, alla privatizzazione totale della salute. Insomma, paragoni e possibilità di confronti, di esemplificazioni con quello che è stato lo sono. Lo ripeto, mi sembra che 40 anni sono passati, abbiamo perso tante conquiste velocemente in virtù di questo enorme compromesso storico che c'è stato tra tutti i partiti e i sindacati. Abbiamo perso, come dire, la realtà dei movimenti di ribellarsi, di incazzarsi, di contrattare anche una migliore attività di vita eccetera, e se ne sono approfittati fino in fondo. Insomma, ci sono meccanismi infernali che impediscono la possibilità di una vita corrente dignitosa, e peggio ancora, i giovani non se ne accorgono, come non me ne accorgevo io 40-50 anni fa, nel momento in cui però ti invecchi, se non hai più quel pezzettino di contributo sociale che hai versato, che è la pensione, qui in pensione non ci andrà più nessuno, se non ti sei fatto delle buone relazioni sociali, dei compagni e compagne con cui hai amplificato le battaglie eccetera, e che quindi possono anche in vecchiaia costituire il supporto, l'assistenza, l'ammortizzatore sociale che oggi lo Stato non offre. Quindi ci sarebbero tutte le condizioni di un'enorme ribellione, e ho la preoccupazione che questa enorme ribellione o sfoga nei nazionalismi, nelle piccole patrie, come può accadere ovviamente al di là del giudizio che si può dare sull'attualità del conflitto tra la Catalogna e lo Stato centrale madrileno, ma anche in altre situazioni, anche le stesse velleità ovviamente nella Lombardia e del Veneto, che tra una settimana vanno al voto non per la secessione ma eccetera. Però tutta questa caduta del conflitto politico nei confronti del sistema poi si sparge in tanti altri rivoli e si perde l'orizzonte, l'indicazione, la strada. Senti Vincenzo, allora ci dici, c'è un doppio appuntamento, ma del secondo ne parleremo più diffusamente. Il primo appuntamento per la presentazione del libro è questo venerdì 6 ottobre al BAM, Biblioteca Popolare. Ci dici un po' come si svilupperà, l'orario anche? Sì, allora dalle 18 lì in questo quartiere popolare, dove la BAM offre questo servizio, questa amicizia, no, di libri da prendere, da consultare, da frequentare, anche quella vicenda di quel quartiere storicissimo qui per quanto riguarda Roma, dove hanno sede una quantità di soggetti estremamente interessanti, compresi i migliori writer che ci sono in Italia, le realtà della filmografia, anche dove una volta a settimana c'è un confronto con registi e quant'altro, ma soprattutto hanno voluto fortemente che fossero loro ad aprire queste presentazioni. Tu hai citato, ce ne sarà un'altra, l'altra sarà all'ex NIA nell'ambito di Logos, questo 4 giorni di attività appunto sulla parola, sulla scrittura eccetera, sarà in quel caso il venerdì successivo, il 13, e alle 18 ovviamente insieme a me lo presenteranno anche Tano D'Amico, che pubblica come da vari anni, come l'ha fatto già nel 77 con il bellissimo libro fotografico El 77 nell'ambito dei libri del No, che venivano avanti questa editoria dal basso proprio in quel tempo, alla fine del 1977. E Graziella Bastelli, che ovviamente la compagna della radio, del policlinico, insomma, che tante battaglie continua a fare, e ovviamente ed è stata abbastanza protagonista anche del movimento femminista, delle battaglie per la verità su Giorgiana Masi, eccetera, e che quindi credo che ci sia questo contributo policromo. Nel 77 ovviamente nasceva Radio Onda Rossa, e Radio Onda Rossa continua non solo a far parlare di sé, ma delle valenze come i tuoi programmi, ma anche ce ne sono tantissimi dentro, certo. Radio Onda Rossa, e questo ci conforta della bontà che alcune cose comunque sia sono mantenute, anche se con il sacrificio costante di coloro i quali la rispettano, la sostengono, eccetera. Quindi è un 77 per chi ti parla e per tanti altri che hanno continuato quest'opera, insomma, di controinformazione, di comunicazione altra, di sostegno appunto alle cose che abbiamo fatto, di valenza da non disperdere, da mantenere, insomma, in qualche misura da rafforzare, se è possibile, ovviamente ciascuno poi farà del proprio meglio. Ecco, credo che ci saranno alla BAM anche parecchi giovani con cui il confronto è attuale, stante almeno la curiosità di voler capire e non solamente dire: ma voi eravate un'altra bella generazione e non siamo in grado. Non è vero. Non è vero che non saranno in grado. Io sono ben convinto che come c'è stata lì, ovviamente venivamo da un decennio, ma insomma l'innesco però fu quel primo febbraio. Se i fascisti non fossero venuti all'università con la solita arroganza, prepotenza canagliesca, cominciassero a sparare, quindi proditoriamente, eccetera, probabilmente le cose sarebbero avvenute in un altro modo. Ma non voglio e non penso che ci sia bisogno di un innesco, di una sparatoria violenta per poter arrivare a far capire che l'incendio che può svilupparsi nella intera prateria. Mi auguro che ci sia nel tempo futuro una capacità insorgente a cui non mancano i riferimenti di poter sviluppare la rivolta nei modi, nei sensi, nella volontà di coloro i quali la mantengono viva. Vincenzo, io ti ringrazio, un abbraccio e ci sentiremo a presto anche per la prossima presentazione, e un abbraccio. Di nuovo grazie a te, grazie alla radio, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao.